anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma e Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Quando sono le 7:20 minuti in punto, cari ascoltatori, questo è lo spazio della rassegna stampa di 24 mattino. E allora siamo pronti a svelare quello che c'è sui giornali di oggi. Andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a martedì 20 giugno e intanto a una carrellata dei titoli di prima pagina dei vari quotidiani, l'apertura del Sole 24 Ore, Brexit si apre, il dossier agenzie, pressing di Milano per l'autority dei farmaci, Francoforte favorita per il credito. Dopo il divorzio Regno Unito Unione Europea, o il processo di divorzio, ecco le agenzie, le sedi delle agenzie dove potrebbero andare. Poi, per rimanere in Gran Bretagna, Londra, Corriere della Sera, Londra ora teme la violenza anti-islam, furgone sui fedeli alla moschea di Finsbury Park, un morto, la May dice atto ripugnante come gli altri. Il Messaggero, Londra, un killer contro l'islam. Avvenire invece mette tre colpi dell'odio. A Londra furgone travolge islamici in preghiera. A Parigi attacco alla polizia, in Mali ai turisti. Per Libero c'era da aspettarselo, la vendetta. Gallese si lancia col furgone contro la folla fuori da una moschea gridando «Uccido i musulmani». Il Manifesto, Londra, attacco alla moschea, ma anche la resa della Bastiglia, il titolo principale, il tentativo di attentato sugli Champs-Élysées contro la polizia. Venendo alle questioni italiane, Repubblica in prima pagina un'inchiesta sul terremoto, la ricostruzione nel caos, questo è il titolo di prima pagina. Mentre per rimanere in ambito internazionale, la stampa, Russia usa la battaglia dei cieli. Queste alcune delle aperture, ne vedremo altre nel corso della rassegna stampa, però voglio subito partire proprio dalla cronaca, la vicenda di Londra, quello che è successo con la follia totale di questo signore gallese, arrestato poi, Darren Osborne, attentatore della moschea di Finsbury Park, la cui vita, come racconta Luigi Ippolito a pagina 3 del Corriere della Sera, è di una normalità sconcertante. Un tranquillo padre di famiglia cresciuto nel Somerset, che venerdì ha portato i figli a scuola, poi ha noleggiato un furgone per 80 sterline e domenica sera è andato a Londra ad ammazzare i musulmani. Questo in sintesi estrema il suo profilo e tutto ciò rende ancora più aberrante la sua azione sconsiderata. Leggo sempre dal Corriere della Sera, pagina 3. Nato a Singapore, 47 anni, cresciuto a Weston-super-Mare, cittadina in provincia vicino a Bristol, dove ancora risiedono sua madre e altri parenti. Un paio d'anni fa si era trasferito a Cardiff, nel Galles, coi quattro bambini e la compagna dalla quale si era separato 6 mesi fa. Alcuni conoscenti lo descrivono come un padre devoto, ma qualcosa deve essere scattato nella sua testa se dopo aver ammazzato una persona e ferito molte altre ha detto «Ho fatto la mia parte». E se anche dopo l'arresto ha continuato a sorridere, a salutare, a mandare baci come l'autore di un'impresa eroica. E questo ovviamente sconvolge per il rischio di ritorsioni, di vendette. Tra l'altro, quando è stato fermato, è stato proprio un imam, l'imam Mohammed Mahmoud, imam della moschea di Finsbury Park, a sottrarlo al linciaggio della folla e a consegnarlo alla polizia. Su questo c'è anche una testimonianza di un'italiana, sapete che molti italiani vivono a Londra, e come racconta il Secolo XIX a pagina 2 con Selene Ricco, c'è un'italiana spezzina che era lì e che può testimoniare, si chiama Elena Quaretti, e dice a pagina 2 del Secolo: «Ho visto in faccia l'attentatore, la gente intorno lo prendeva a calci, incitata da altri che urlavano «Uccidetelo, uccidetelo!». Aveva il viso dilaniato, completamente cosparso di sangue, non dimenticherò mai questa immagine». Queste sono le parole di Elena Quaretti, che è stata una dei primi a chiamare i soccorsi. Era da poco rientrata a casa quando all'improvviso ha sentito un boato seguito da urla strazianti. Prima ancora di capire cosa stesse succedendo, ho preso in mano il telefono, chiamato il 911. Guidata dalla persona con cui ero in contatto, sono scesa in strada e ho raggiunto il luogo dell'attentato. Ho capito subito che un van aveva travolto la folla. Avevo paura. Non riuscivo a spiegare quello che vedevo. Farfugliavo parole senza senso. La prima persona che ho raggiunto era a terra, ma una giovane ragazza musulmana con un velo rosa stava effettuando le manovre di rianimazione. Mi ha detto di essere un'infermiera. Mi sono spostata più avanti. A terra c'era un uomo. Subito ho pensato a un altro dei feriti, invece ho intuito che si trattava dell'attentatore. Le persone intorno lo stavano massacrando, prendendolo a calci in faccia. Ho incontrato altre persone, una di queste aveva qualche lesione ma non era grave ed era solo molto spaventato. Insomma, un racconto drammatico di quello che è successo di questa Elena Quaretti, che di fatto è stata una delle prime a soccorrere le persone o comunque a intervenire sul luogo dell'attentato a Londra. A Parigi invece, spostandosi qualche chilometro più a sud, c'è stato un altro tentativo, questa volta di attentato, questa volta un'autobomba con un terrorista di origine tunisina, si chiamava Adam Lofty Jaziri, che è stato speronato poi da un furgone di 8 gendarmi e poi che cosa ha fatto? Ha tentato evidentemente di dar fuoco alle due bombole di gas e alle sostanze chimiche che aveva messo nell'auto per far esplodere tutto contro il furgone della polizia, ma qualcosa è andato storto per il suo verso. I gendarmi sono riusciti a tirarlo fuori dalla macchina, lui si è accasciato ed è morto. Poco dopo evidentemente aveva respirato quelle sostanze letali all'interno dell'abitacolo della macchina. Quindi si può parlare di fallito attentato, nel senso che questo estremista islamico, schedato dall'intelligence, eppure aveva il porto d'armi, peraltro, fa sapere il Corriere della Sera, puntava davvero a fare una strage di poliziotti facendo esplodere il tutto. In tutto questo, ieri è stato fermato, arrestato, tale Hussein Abs Amiar in Italia, a Crotone, perché all'interno del centro rifugiati diceva cose del tipo: per fare la jihad si può rimanere anche in Italia e per redimere gli infedeli va tagliata loro la gola. È stato arrestato, 29 anni, iracheno. Siamo dovuti intervenire, ha detto il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, perché abbiamo ritenuto concreto il rischio di fuga e temevamo che il soggetto lasciasse la Calabria per compiere un attentato terroristico. E va bene, meno male, almeno questo è stato sventato in Italia. Certo, come potete vedere, la situazione è difficile e tra l'altro il fatto che molti giornali non aprano con questa notizia fa pensare che purtroppo, come si diceva qualche tempo fa, è un mondo al quale siamo abituati da un paio d'anni a questa parte. Ogni tanto succedono questi attentati nel cuore delle nostre città e ormai non finiscono neanche in prima pagina. Oggi invece in prima pagina c'è, su Repubblica, c'è un'inchiesta che è l'inchiesta che nettamente vince il premio per l'articolo che mi fa più incazzare questa giornata, vale a dire il premio Mani sul Volante, ed è l'inchiesta sul terremoto di recente e la mancata ricostruzione. È un'inchiesta molto dettagliata di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, con numeri, testimonianze, racconti di sindaci che raccontano come la burocrazia soffochi le comunità che così spariranno. Terremoto, la ricostruzione nel caos, pagina 2 e 3 di Repubblica. Le promesse mancate, un dato: in strada c'è ancora il 92% delle macerie. Le casette consegnate, questo l'abbiamo già detto, ne sono state ordinate 3.620 in 51 comuni del cratere, ne hanno consegnate l'8%, 296 in tutto. Eppure, racconta Repubblica da Visso, a Sasha avevano detto che entro 7 mesi avrebbe avuto una casetta di legno. Proprio lì, a Visso, il suo paese distrutto, era novembre. Sasha oggi vive ancora in una roulotte. A Marco, 11 anni, avevano detto che la sua classe sarebbe rimasta unita, che non avrebbe perso i compagni di scuola. A settembre, per il secondo anno consecutivo, ne conoscerà di nuovi sulla costa adriatica. A Enzo, allevatore di Castel Sant'Angelo sul Nera, avevano detto che gli avrebbero portato una nuova stalla. Sta per iniziare la prima estate del dopo terremoto e le sue bestie dormono in quel che rimane della vecchia. Avevano promesso, le istituzioni avevano promesso, il governo Renzi prima, il governo Gentiloni poi, i governatori regionali, tutti. Hanno fatto credere agli abitanti del cratere più vasto della storia del nostro paese, 131 comuni, 4 regioni, che presto sarebbero tornati a una vita tutto sommato accettabile, che presto sarebbe finita. 10 mesi dopo non è nemmeno cominciata. Le macerie sono a terra, di casette ne sono arrivate pochissime. La ricostruzione è un miraggio. Una volta c'era il modello Bertolaso che in nome della rapidità calpestava regole e raggirava i controlli, la somma urgenza invocata per qualsiasi cosa, i grandi eventi, le deroghe, le ordinanze di protezione civile. Abbiamo visto con quale facilità si sono inseriti speculatori, corruttori all'Aquila, al G8 della Maddalena, ai mondiali di nuoto del 2009. Ora però c'è il modello burocrazia. Dice il sindaco di Visso, Giuliano Pazzaglini, vi rendete conto, per accedere alla zona rossa del paese deve attraversare una capanna accanto a una pasticceria. In 7 mesi dovevano arrivare le casette di legno e mica me lo invento io, c'era scritto sul sito della Protezione Civile. Sapete quante ne abbiamo viste a Visso? Zero. Eppure dicevano anche entro Natale le prime 20 casette ad Amatrice, lo dichiarò il 23 settembre l'allora premier Renzi. Le famiglie amatriciane le hanno avute a marzo. Finora le casette, appunto, ne sono arrivate l'8%. E così via, un racconto a pagina 2-3 da Ussita, Visso, Amatrice e tanti altri centri colpiti con tutte le promesse mancate dei governi nei confronti dei terremotati. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il Dollarum dell'informazione. E va bene, viva Dollarum. Oggi tra l'altro la Gazzetta dice che forse c'è un dietrofront, quindi ripensaci Gigio, questo è l'appello della Gazzetta e dei tifosi del Milan a Donnarumma, ma vedremo. Vabbè, abbiamo parlato del terremoto. Per completezza e informazioni sulla questione del terremoto, non c'è solo la questione della ricostruzione mancante, c'è anche tutta la polemica sulla tassa di successione sugli immobili che è rimasta e non è stata cancellata, l'imposta sugli edifici colpiti dal sisma, con la campagna giornalistica che è stata portata avanti da molti, anche il Quotidiano Nazionale, a dire ma come, è incredibile, Berlusconi ha detto io l'avevo cancellata dopo il terremoto dell'Aquila. Ebbene, interviene ora il commissario Vasco Errani dopo la denuncia giornalistica a dire rimedieremo. Vasco Errani, il governo rimedia l'errore, niente tassa di successione. C'è voluta la campagna giornalistica, c'è voluta l'ira del sindaco di Amatrice Pirozzi, che ha minacciato di restituire le chiavi del comune, c'è stato un putiferio di reazioni politiche per arrivare a far dichiarare il commissario Errani, oggi intervistato da Rita Bartolomei, pagina 3 del Giorno, nel primo provvedimento utile in Parlamento il governo farà un emendamento per definire con chiarezza che nessun cittadino terremotato dovrà pagare alcunché per la tassa di successione. Dunque, questa decisione, poi Errani dice anche in altri terremoti la decisione è stata presa dopo un anno, comunque ripeto, questo problema sarà risolto in tempi utili e con chiarezza, dopodiché è giusto che si dicano le cose per come sono. Il governo ha fatto una scelta importante per la ricostruzione, edifici pubblici, religiosi, beni culturali, imprese, prime e seconde case, un impianto così completo e inedito mi pare giusto riconoscerlo. Certo, c'era questa tassa di successione, ma adesso Errani dice verrà eliminata la prima occasione utile. Staremo a vedere. Allora, la politica si concentra sul caso Consip. Oggi è una giornata definita da Repubblica campale sul caso Consip, la centrale di acquisto per le pubbliche amministrazioni. un po' decapitata perché si sono dimessi alcuni dei consiglieri, come il presidente e una consigliera del Tesoro. Tiene duro invece l'amministratore delegato Marroni, che non si vuole dimettere. Secondo invece il governo è decaduto di fatto. Lui però dice non è neanche indagato, è il grande accusatore di Tiziano Renzi, dicendo ha subito pressioni. E oggi c'è la giornata campale al Senato perché ci sono almeno 6 mozioni presentate e si dovrebbe votare. Si dovrebbe, usa il condizionale Silvio Buzzanca, pagina 10 di Repubblica, perché sarà il presidente Grasso a decidere cosa fare e come farlo. E sul dibattito aleggia la notizia, confermata da Raffaele Cantone, che l'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, andrà a parlare nei prossimi giorni proprio con lui, il capo dell'anticorruzione. Si fanno subito i giochi aritmetici su quale mozione potrebbe essere, se votate, passata. Quale no? È tutto un gioco. È interessante l'articolo del Corriere della Sera. Lorenzo Salvia racconta: Marroni, l'amministratore delegato, dice c'è un chiaro accanimento su di me, mi sembra ormai chiaro. Lui, che tra l'altro è stato scelto dal cosiddetto Giglio Magico, lui che è un renziano doc e che è ex assessore anche in Toscana, e che ora però racconta il Corriere, dice: spero che si votino le mozioni, spero anche che la maggioranza vada sotto. Queste sono parole utili per capire quanto ormai siano deteriorati i rapporti tra il governo e l'amministratore delegato di Consip, un tempo vicino al Giglio Magico. Un altro articolo che vi voglio segnalare su questo, lo trovate sulla Stampa, Edoardo Izzo, pagina 7. Sarà decisiva ora una nuova audizione dai magistrati di Vannoni. Filippo Vannoni è il presidente di una società, ed è il primo che è di Publiacqua, ed è lui che per primo disse ai magistrati: ricordo di avere informato Marroni, cioè l'amministratore delegato di Consip, sul fatto che aveva il telefono sotto controllo, ma non sono in grado di dire chi mi abbia dato questa informazione. Sicuramente, prima di parlare con Marroni, Lotti, cioè il sottosegretario, anzi il ministro, scusate, lo sport, mi ha detto che c'era un'indagine su Consip. Allora i magistrati gli ricordano che come testimone ha l'obbligo di dire la verità, e lui aggiunge: non riesco ad avere un ricordo nitido di queste vicende. In questo momento non ricordo se ho parlato delle indagini su Consip con Lotti. I PM insistono e lui dice, facendo mente locale, vi dico che effettivamente fu Lotti a dirmi che c'era un'indagine su Consip. E poi aggiunge: ricordo che il presidente Renzi mi diceva di stare attento a Consip. Ora, se verrà risentito, il presidente Publiacqua Vannoni potrà o ripetere questa versione, e cioè Lotti mi disse che c'era un'indagine su Consip e quindi inguaiarlo, oppure modificare tutto quanto affermato a Napoli, rischiando di essere anche incriminato per qualche tipologia di reato. Comunque staremo a vedere. Il caso Consip è il caso politico del giorno. In tutto questo c'è un Silvio Berlusconi letteralmente ringalluzzito. Rilascia interviste al TG1, al TG5, viene dato per certa una sua discesa in campo in questi giorni prima dei ballottaggi in alcuni capoluoghi, in alcune città dove poter spingere i candidati di centrodestra. Sulle mosse di Berlusconi è imprescindibile oggi l'articolo di Ugo Magri sulla Stampa, pagina 9. Berlusconi ci riprova con l'albero delle libertà. È un piano per candidarsi. Racconta di una cena con i suoi, nella quale tra l'altro Toti, governatore della regione Liguria, ha detto a Berlusconi, rivolgendosi, dandogli del lei: lei ci viene a parlare di sistema proporzionale, di correre per nostro conto, io davvero, presidente, non la riconosco più. Questo è un po' lo strappo che Toti, in modi educati ma bestialmente duri, alla presenza dei Ghedini, alla presenza di Mara Carfagna, ha preso le distanze da Silvio Berlusconi. Eppure Silvio Berlusconi, racconta Ugo Magri, è pronto ad autorilanciarsi, e lo fa mostrando a tutti tutti i suoi collaboratori l'arma atomica che secondo lui dovrebbe permettergli di puntare al 30%, così la definisce la stampa. Che cos'è? È un disegnino di albero, tutto verde su sfondo azzurro, fronzuto come una quercia, ma in realtà è un melo o un pero per via dei frutti penzolanti. È un albero con tre enormi radici, è l'albero della libertà, come Berlusconi l'ha ribattezzato, o secondo la definizione più in voga, l'albero degli zoccoli, al maschile plurale. Le radici sono la libertà, appunto, la democrazia, i valori dell'Occidente. Il fusto e i rami indicano i problemi da risolvere, che sono meno tasse, meno Europa, meno Stato, più aiuti a chi è rimasto indietro, più giustizia per tutti e più sicurezza. Mancano ancora risposte su giovani e immigrazione, ma l'ex premier aggiungerà qualche altra mela. Questo è l'albero delle libertà. Caro Mauro Meazza, se vuoi appropinquarti anche tu ad assaggiare la mela del peccato, fai pure. Buongiorno. Ma caro Alessandro, buongiorno, buongiorno, questo introduzione. E ricordati, maschile plurale, l'albero degli zoccoli. Non ti preoccupare che abbiamo colto la sottile ironia dai, su. Senti, guarda, io ti vorrei ricordare che anche oggi con il Sole 24 Ore per tutta la settimana proseguiremo nella guida alla manovra, perché intanto che tu ti preoccupi della botanica, la manovra è diventata legge. Oh, a proposito, dentro la manovra, ma lo scoprirai leggendo norme e tributi, bene, c'è anche la disposizione per un ritocchino alle sigarette. Quindi, potrebbero scattare degli aumenti. Ti pesa questo, eh? Ma insomma, diciamo che sono coinvolto direttamente. Non sono invece coinvolto direttamente, ma mi fa specie quel che leggo sulle pagine di Imprese e Territori, che tu scrupolosamente pure devi leggere. Perché scopro che in 8 anni si sono persi 46.520 bidelli e tra l'altro ne mancano complessivamente. Assolutamente, non ce ne abbiamo più. Adesso bisognerebbe trovarne almeno 1.700 per assicurare, diciamo, il normale funzionamento delle scuole nel prossimo settembre. Ma bisognerebbe anche fare i concorsi. Vabbè, questo così un dettagliuccio sulle vicende scolastiche che colgo da Imprese e Territori. Oh, invece è tutto dedicato proprio a te, alla tua passione con cui segui questa vicenda istituzionale, il fatto che, lo leggi da norme e tributi, servirebbero 471 milioni per le province. Ma certo, ho sentito il presidente dell'Unione delle Province Italiane. Paio di urini. Ma perché? Santa pazienza, ma possibile. Se non li dai per le province, tienili che ci compriamo il bond a 100 anni dell'Argentina. Lo leggi avidamente. Sì, lo leggi avidamente sulle pagine di Finanza e Mercati. A 100 anni, eh? A 100 anni, sì, poi lo riscuoti tu con comodo, sì. Io conterei di essere altrove, magari, magari in uno stato estero, esotico, cose di questo tipo. Oh, molto altro ti vorrei dire, ma ne ricordati ancora la guida alla manovra, caro, che prosegue oggi con l'ACE, il patent box, tutte cosucce che interessano parecchio le imprese, domani altri approfondimenti sulle imprese, però ti voglio dire, puoi far giocare i bimbi con le biglie, perché non è reato, anche se disturba i tuoi vicini, magari tirando la biglia contro il muro, capisci? Sì, sai com'è. Ecco, ma abbassa il volume del televisore, perché lì è reato. Da dove ho tratto tutte queste informazioni? Forse da nome e tributi. Ma certo, ma no, soprattutto dalla pagina, essendo martedì, di dei condominio. Oh, e allora vedi che sei preparato. Va bene, allora tutto ciò premesso, è proprio il caso di dirlo. Traffico! Alessandro Milan, what else? E va bene, allora alle 7:50 minuti per la politica vi segnalo che c'è un'intervista a Denis Verdini, viene intervistato da Maria Teresa Meli. È una pagina sul Corriere della Sera, Denis Verdini, che sembrava un po' scomparso dall'orizzonte politico. Lui dice: ma quale sciocchezze, sono qui 12 ore al giorno come sempre. Racconta della smania di andare a votare. Renzi pensava solo alle urne, mentre Silvio Berlusconi pensa solo a non fare la lista con Salvini. Non escludo la nascita di un centro purché non sia un centro contro qualcuno, un centro antirenziano, anti-berlusconiano, a me parrebbe un ossimoro politico. E Verdini poi prende un po' le distanze da Renzi, nel senso che alla domanda di Maria Teresa Meli, lei ormai critica apertamente Renzi, si sente dunque scaricato, risponde Verdini: per essere scaricati bisogna essere prima essere stati caricati, cosa che a me non è mai successa. Ma Denis Verdini: Renzi voleva un governo fragile, mi disse di non andare con Gentiloni. Questa è un po' la stilettata nel titolo che Denis Verdini lascia a Renzi, ed è l'intervista sul Corriere della Sera. Allora, andiamo alle notizie di cronaca. Questa mi ha colpito più delle altre perché, come dire, di fronte a una tragedia di questo genere uno deve anche sospendere il giudizio, anche se qui, anche con Oscar Giannino, abbiamo fatto tante puntate dedicate all'abusivismo edilizio, a questa piaga italiana, ma qui l'abusivismo edilizio si intreccia con una vicenda personale che è raccontata dal giornale, successo a Eboli. Racconta Titti Beneduce a pagina 17 del Corriere della Sera: il pensionato morto davanti alle ruspe, possedeva solo quella casa abusiva. Succede a Eboli, dove un pensionato, ex bracciante agricolo, Salvatore Garofalo, 64 anni, è morto di infarto sabato mattina appena visto gli operai con le ruspe della unica casa che aveva e che dovevano abbattergli perché abusiva. Quindi dal punto di vista della legge, voglio dire, era tutto dovuto. Era la sua prima e unica casa di proprietà, ma era abusiva, per questo doveva essere abbattuta. Salvatore Garofalo, 64 anni, non riusciva ad accettarlo e quando sabato mattina sono arrivati gli operai incaricati della demolizione e gli hanno recintato l'edificio, si è sentito male e poco dopo è morto di infarto. Un infarto, accusa l'avvocato, di cui è colpevole lo Stato. La storia simile della famiglia Garofalo è simile a tante altre storie italiane. E il senatore Ciro Falanga, che ha portato avanti una legge, firmatario del decreto legge sugli abbattimenti, ha annunciato le dimissioni dal Senato, già minacciate se il testo non fosse stato approvato entro l'estate, perché dice: il mio provvedimento avrebbe salvato quelle che sono le cosiddette case di necessità da situazioni del genere. In ogni caso, trovate la notizia di cronaca sui giornali. Di notizie di cronaca trovate anche questa della moglie dimenticata. Ragazzi, questa sembra, a volte sembrano leggende, per anni sono state leggende, questa volta pare che sia proprio vero. Una persona di Bardassano che è ripartito dall'autogrill come film Pane e Tulipani, ha lasciato la moglie giù dal sellino della moto e se n'è accorto 40 km dopo, con la moglie che l'ha rintracciato. Dice: cretino, cosa hai fatto? E lui, anche disperato, non se n'è accorto, pensava di averla addirittura persa, pensava che fosse caduta dalla moto, quindi disperato. Poi è riuscito, quando è riuscito a mettersi in contatto, si è beccato tutti gli insulti della moglie abbandonata all'autogrill. Bah, bisognerebbe parlare con i protagonisti per capire davvero cosa c'è dietro a questa vicenda. In tutto qui, vabbè, la notizia la trovate, è anche il caffè di Gramellini sul Corriere della Sera, da ovviamente adito e dalla stura una serie di commenti di qualsiasi tipo che potete fare anche voi sulle vostre mogli che vi siete dimenticati qualche volta all'autogrill. Allora, veniamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. C'è una mezza pagina di Libero che riprende un'intervista recente di Emma Thompson, che dice: in America lavorano solo le modelle, o meglio le attrici, che sono magre, magre, magre, magre, magre. E Libero si chiede: e in Italia i chi li servono? Chi lavora nel cinema? Le magre o le formose? Ma chi se ne frega!